Radical Pop. Ospite quest'oggi ai microfoni della radio Fulvio dei Teneme qui a Fuggio. Benvenuto, ciao Fulvio. Buongiorno Dado. Allora, prima domanda. Allora, chi sono i Teneme qui a Fuggio? Sono una band, prima di tutto. I Teneme qui a Fuggio sono una band del Basso Salento. Spiego subito il nome visto che hai difficoltà a pronunciarlo. Teneme qui a Fuggio è una frase latina che significa tienimi perché sto fuggendo. Era scritta, incisa, su un collare che avevano gli schiavi nell'antica Roma. E tutto il nostro discorso di musica è verso un'idea di liberazione da certe schiavitù che ci affliggono nella contemporaneità, e di questo ne parleremo. Che genere proponete? Beh, il nostro è un genere punk con qualche venatura di hard rock e di blues, ma sostanzialmente musica punk, quindi è un disco smaccatamente punk. Allora, io direi che dopo questa piccola bio introduttiva possiamo ascoltare una traccia. Cosa ascoltiamo, Fulvio? Addirittura come prima traccia la numero 3 del disco. Abbiamo ascoltato una traccia chiamata Addirittura, addirittura dal vostro primo disco omonimo, uscito se non sbaglio nel 2018. Il disco è uscito nell'estate del 2018, quindi sono già 3 anni che è uscito, ha avuto anche un buon seguito, è online, gratuito, questo è importante dirlo, sia su YouTube che su Spotify. Il disco ha avuto una produzione interessante da un punto di vista proprio dei materiali utilizzati, perché abbiamo deciso di non utilizzare plastica per la confezione del CD, se non per il CD stesso. Ne abbiamo prodotte 200 copie, tiratura limitata, abbiamo ancora qualche copia, la diamo. Formati? Formato al momento solo CD. Qualcuno ci ha proposto anche di fare un vinile, siamo usciti su un vinile, in realtà una raccolta della nota etichetta indipendente Lepers di Bari, che salutiamo. Ascoltiamo un'altra traccia, dopo addirittura cosa ci sentiamo, Fulvio? Insicurezza, perché credo che sia assolutamente attuale. Noi quando scrivevamo Insicurezza non avevamo idea di quello che sarebbe accaduto nei due anni successivi e la situazione che avremmo vissuto quest'anno, però ci sta benissimo. Insicurezza, l'autorità mi spezza, l'autorità mi spezza. Insicurezza, insicurezza, il mio corpo si dimezza, il mio corpo si dimezza. Per la sicurezza, insicurezza, si chiudono frontiere, tieni mani depressa. Per la sicurezza, insicurezza, stasera c'ho deciso, me faccio un pezza. Insicurezza, il popolo s'affloscia e il monarca ci sferza. Insicurezza, insicurezza, ci si lascia dolcemente decollare la testa. Per la sicurezza, per le disagenza, sul mio star tranquillo come in una fortezza. Mentre intorno a quella gabbia è sempre più stretta. Mentre intorno a quella gabbia è sempre più stretta. Abbiamo ascoltato la traccia intitolata Insicurezza per Teneme qui a Fuggio. Ti volevo chiedere, Fulvio, che temi trattate nel vostro album? I temi sono sostanzialmente riguardanti la liberazione della persona come singolo, questo poco ma sicuro, ma anche come collettività. Sono tante le canzoni che parlano di questo. C'è la Ribellula, che parla delle industrie d'armi e come influenzano la nostra vita, l'uomo dell'età della plastica, che parla appunto di quanto siamo colonizzati dalla cultura della plastica, Insicurezza, che abbiamo appena ascoltato, su una certa deriva autoritarista della società. questi sono i temi fondamentali di questo disco, penso che siano anche abbastanza attuali. Artisti di riferimento sulla vostra musica? Guarda, ti dico subito, questo disco ha, diciamo, un padre putativo che sarebbero gli Iggy and the Stooges di Raw Power. Esteticamente ci siamo molto ispirati a quel disco, proprio come sound, molto molto grezzo, istintivo, primordiale, che deve arrivare subito al cuore, all'anima. Operaio, perché Iggy and the Stooges venivano anche da Detroit, vengono ancora, perché il mitico Iggy è ancora qua che lotta insieme a noi, da Detroit. Assolutamente operaio, guarda, mi fai pensare anche ai Chrome di Half Machine Lip Moves, stesso discorso, nel senso dischi molto molto raw, molto molto crudi, anche non perfetti stilisticamente, tecnicamente, ma che arrivano belli diretti, ecco. Giriamo in safari, tu spegnisti cazzo di fari, ci ci sono i bagliori lunari, dai magari, dici sempre quello in cui speri, ma non voglio più pensieri. Mi dici sempre quello in cui speri, ma non voglio più pensieri. Magari mi punti alle tempie e mi spari. Magari tu prendi due birre da bere. Tu prendi due birre da bere. Tu prendi due birre da bere, poi si vede che succede. Tu prendi due birre da bere. Tu prendi due birre da bere, a bere, a bere, a bere, a bere, a bere. Magari è il nome del pezzo. Sì. Dopo addirittura, dopo insicurezza. Magari, magari, magari ci riprendiamo. Guarda, ti dico Dado, inizialmente il nome del gruppo era Insomma. Infatti noi stessi quando parliamo di noi non ci definiamo tanto TMQF quanto ex Insomma. E volevamo fare un disco di soli avverbi e l'avverbio doveva essere il nome del gruppo. Poi dopo ci abbiamo pensato un attimo, abbiamo preferito TMQF, però l'avverbio rimane in magari, addirittura, insomma, ecco. Spiegaci un attimo qual è stato il processo di produzione del disco. Mi dicevi anche che avete un videoclip. Assolutamente sì, il videoclip è di un'altra, diciamo è il nostro singolo spettacolare, non spettacolare, spettacolare, un mix che ci ascolteremo dopo il tuo intervento. Perfetto, è un neologismo fra spettrale e spettacolare, appunto, e parla di come i mezzi di comunicazione riescono a dare una rappresentazione della realtà che a volte non corrisponde affatto con la realtà. E il videoclip è interessante anche per un altro punto di vista, che fa capire bene come il gruppo sia formato da elementi eterogenei in cui confluiscono anche persone che hanno esperienza nell'underground figurativo, quindi non solo musicale, ma anche di altri tipi di arte, ecco, come la pittura, la scultura, la performance, questo. Il coronavirus ha fermato il vostro processo evolutivo, avete nuove canzoni, dovevate esibirvi, vi hanno annullato dato, immagine come tutti. Beh, chiaramente come tutti abbiamo dovuto subire questa situazione, quindi i live, dove tra l'altro erano dei contesti che ci piacevano molto perché riuscivamo anche ad esprimere un certo essere selvaggi sul palcoscenico, adesso per forza di cose dobbiamo virare su altro, nel senso più su una musica di campionamenti ed elettronica, perché è anche difficile trovarsi in questi contesti di restrizioni. E non è bello, ma bisogna fare di necessità virtù. Fra l'altro questo tipo di restrizioni saranno alla base dei temi delle prossime canzoni, ancora più approfondite sotto questo punto di vista. Avete concerti in programma per quest'estate o per il prossimo autunno, con la speranza che si possa tornare ad andare a vedere un concerto? Beh, in sicurezza. Sì, esatto, in sicurezza. Speriamo ad agosto già di essere in pista di nuovo e di poter suonare nuovamente dal vivo, anche perché, diciamo questo molto importante, improvvisiamo tantissimo dal vivo. Le canzoni non hanno una struttura fissa. Come le senti nel disco non sono come le sentiresti dal vivo, perché ci piace molto improvvisare anche a livello testuale, non solo musicale. Vogliamo anche salutare i tuoi compagni di avventura? Sì, siamo un po' una tribù, siamo un po' una factory per i motivi che ti dicevo prima, quindi convergono diverse figure e diverse individualità. Gianluca Carluccio, il bassista, Alberto Piccini che è un po' l'istrumentista, quindi ha suonato sia la chitarra che la batteria, anche addirittura la tromba, Alessandro Raeli è chitarrista, Gigi Bello è i synth, Giuseppe Torsello anche chitarrista, Gigi Calabro grande batterista, Luca Coclite che ci ha come dire omaggiato del lettering del disco, è un artista visivo, ci ha sempre accompagnato in questa esperienza, e poi ci sono io che sono Fulvio Rifugio. Ma vivete tutti nella stessa città o siete sparpagliati in giro per il mondo? Siamo tutti originari del Basso Salento, quindi fra Tricase e Alessano e le zone limitrofe. Poi ognuno di noi ha delle vite parallele che lo portano altrove, chi a Bologna come me, chi in Medio Oriente, chi negli Stati Uniti a lavorare, quindi sì. Quindi non facile, anche come dicevi tu, incontrarvi per poi insomma buttare giù nuovo materiale piuttosto che provare. Non facile, ed è diventato sempre più difficile, la gabbia diventa sempre più stretta, dato come dice In Sicurezza. Molto bene, ringraziamo Fulvio dei Teneme qui a Fuggio, un saluto a tutti gli ascoltatori, ci ascoltiamo l'ultima traccia che si chiama L'uomo dell'età della plastica. Tagliente affilata nelle viscere, il magma è così che mi fa.